известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I've spent a lot of my time trying to bring down the rate of abortions, and it has been my experience that good family planning and good medical care brings down the rate of abortion. Questa è Hillary Clinton, ieri si è presentata, è tornata in territori familiari, è tornata in Campidoglio, a Washington, ed ha risposto a interrogazioni su vari temi relativi ai suoi primi tre mesi di attività come segretario di Stato. L'abbiamo appena sentita dichiarare la seguente cosa: ho passato molto del mio tempo a cercare, a lavorare per ridurre le percentuali di aborto in America e ho messo a punto la consapevolezza che una buona pianificazione familiare e una attenzione medica, sanitaria di qualità contribuiscono ad abbassare appunto queste percentuali di aborto. Questo in risposta alle domande che le sono state poste in relazione, anche con una vena polemica, in relazione alla propaganda di cui Hillary si è resa responsabile in favore della contraccezione nei suoi nuovi compiti internazionali, quindi andando in giro per il mondo a parlare a nome dell'America. Naturalmente, come sapete, in America i due fronti, pro-choice e pro-life, da tempo si fronteggiano, discutono e si contrappongono, e Hillary è notoriamente una pro-choice, quindi gli anti-abortisti naturalmente vigilano sul suo comportamento in qualità di segretaria di Stato. Ha detto tra l'altro di giudicare positivamente l'esperienza di questi suoi primi 100 giorni in questa carica, comunque di grande prestigio, grande importanza. Pretty good, piuttosto buoni, è stata la risposta che ha dato quando le hanno chiesto come stanno andando le cose. Molti altri temi al centro di questo incontro con i politici di Washington. Sentiamo che cosa ha detto, per esempio, in relazione all'attività che sta compiendo il nome per conto dell'amministrazione Obama sul controllo del piano nucleare portato avanti dall'Iran. Yes, we are more than willing to reach out to the Iranians to discuss a range of issues. Sì, dice, noi stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per fare in modo che gli iraniani accettino di discutere la questione del nucleare, e ci dobbiamo riuscire, perché questa è una delle priorità espresse dal presidente anche nel suo discorso inaugurale. Noi abbiamo teso loro la nostra mano e loro per adesso non ci hanno mostrato il pugno. Si avvicina questa scadenza dei 100 giorni dell'amministrazione Obama, 44esimo presidente, i consuntivi sono già nell'aria, la scadenza arriva la settimana prossima, ma se ne comincia a parlare intensamente sui media americani. Le sensazioni, la temperatura è buona, per la prima volta da diversi anni la maggioranza degli americani pare convinta che il paese sia sulla buona strada. A questo proposito c'è anche un sondaggio condotto da Associated Press che ha raggiunto il dato secondo il quale il 48% dei cittadini statunitensi ritiene che gli Stati Uniti abbiano imboccato la strada giusta, solo il 44% pensa il contrario. È un dato decisamente di popolarità per Barack Obama, tanto più in tempi come questi. La scadenza dei 100 giorni cade il 29 aprile, per la precisione. Naturalmente la preoccupazione per il futuro economico e per le spese mediche restano le priorità dell'americano medio. Il presidente Obama, sempre secondo questo sondaggio, viene considerato un leader forte, vicino alla gente e impegnato a cambiare Washington. La luna di miele prosegue, i primi tre mesi sono stati superati piuttosto brillantemente da Obama, anche se in tanti concordano nel dire che certo quello Yes We Can della campagna elettorale era visto visto, no, visto da oggi, visto a distanza, visto in lontananza, magari uno slogan forse impregnato un po' troppo di sano ottimismo americano. Poi è successo quello che è successo, ma insomma la nave, sia pure tra i marosi, per non dire la burrasca, la nave, la grande nave americana, continua a navigare. Yo, Rockin', what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right? True. Kara Lewis is our agent. Word up. Zakia and Forth and Broadway is our record company. Indeed. Okay, so who we rolling with then? We rolling with Rush. Our Rush Town Management. So check this out. Since we talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I get deep up, still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents. I need money, I used to be a stick up kid. So I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. We still don't nothing move but the money. Vabbè, sarà che arriva, comincia ad arrivare l'estate. A Roma fa veramente caldo. Oggi ci è venuto in mente di rimettere, no, Eric B. and Rakim, Paid in Full. Questa era l'estate di molti anni fa, ma se c'è un brano possibile per, no, per evocare sapori estivi è questo. A proposito di evocare, si tratta di evocare una notizia che ciclicamente appare e scompare dalle cronache internazionali. Ieri è stata esplosa con una certa violenza sulla rete, partita da un quotidiano britannico decisamente attendibile che si chiama The Independent. Si parla di clonazione, la notizia arriva dagli Stati Uniti, però è così cosparsa, no, di personaggi di tutte le origini e tutto il mondo, a cominciare dal protagonista che è un andrologo statunitense che si chiama Panayotis Zavos, evidenti radici greche, anzi cipriote. Non si sa esattamente dove questo medico stia agendo nella sua ricerca sulla clonazione. Pare certo, almeno lui sostiene, ha annunciato di aver clonato 14 embrioni umani, di averne impiantati in alcune donne. Non ci sono delle gravidanze durature a seguito di questa operazione. Lui parla di un primo capitolo della clonazione riproduttiva umana. La notizia è molto contraddittoria anche all'interno della stessa cronaca che prova a stendere. Il personaggio però non è di quelli nuovi. Le reazioni sono state molto appassionate sull'argomento, a cominciare dal ginecologo italiano Severino Antinori, che vanta una collaborazione con questo dottor Zavos, poi interrotta, che ha detto che naturalmente tutto ciò era prevedibile, che la strada e la procedura è infermabile, a quella di molti altri medici che invece si sono mantenuti su posizioni più prudenti. Però sentir parlare di clonazione è entusiasmante e terrorizzante al tempo stesso. Basta, fate la prova con chiunque, vedete, la reazione è subito di un certo stupore, se non di un certo panico. Allora, per fare un po' il punto su questo ciclico riaffiorare di notizie, abbiamo chiesto un intervento a Armando Massalenti, filosofo, epistemologo, responsabile della pagina Scienza e Filosofia del Domenicale del Sole 24 Ore, tra l'altro titolare di un libro di cui abbiamo parlato anche qui in trasmissione non molto tempo fa, si chiama Staminalia, le cellule etiche e i nemici della ricerca, edito da Guanda. Armando, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Che reazione, che effetto di fronte a questa notizia, sì, nel senso che è l'ultima delle solite notizie o sì, nei suoi risvolti ha qualcosa in più? Ma io sono convinto che sia davvero un po' la solita storia che ogni tanto si ripete. L'abbiamo vista anche in Italia con Antinori, appunto, l'avevamo vista, vi ricordate, con i israeliani qualche anno fa, certo, sei o sette certo, anni fa, certo, avevano detto che era nata Eva, la bambina appunto clonata, la prima. Però quelli erano matti, voglio dire, ma anche qui siamo più o meno meno sullo stesso. Cioè, se noi guardiamo anche al tipo di descrizioni che si fanno di questa presunta clonazione, non è che sia qualche cosa di lontano da ciò che si fa, nella scienza. Sono cose abbastanza plausibili. Cioè, è stata clonata una pecora, Dolly, sono stati clonati tantissimi animali. Però è proprio per questo, se si parte da quell'esperienza, dall'esperienza degli animali, si capisce anche bene che non ha alcun senso, e la comunità scientifica non ha nessuna intenzione di clonare degli esseri umani, nel senso di riprodurli, appunto, cioè di usare la clonazione per la riproduzione. Mentre la ma siamo proprio sicuri? Voglio dire, non c'è un filo di ipocrisia in tutto ciò, cioè in questa, come dire, manifesta buona intenzione della scienza nel dire, per carità, non ci pensiamo neanche, sì, l'idea più lontana, no, siamo sicuri, però veramente? No, io non sono uno scienziato, però sento, sono molto a contatto col mondo della scienza, e questo è una cosa che, appunto, dicevi tu bene prima, cioè è qualcosa che da un lato entusiasma, dall'altro terrorizza, ma certo, più terrorizza che entusiasma, e questo genera dei sentimenti che possono fare il gioco di questi ginecologi. Poi di ginecologi si tratta soprattutto, non tanto di ricercatori, insomma, certo, cioè si tratta di persone che in questo modo fanno una grossa pubblicità alla loro attività, che è un'attività peraltro utilissima, che in genere riguarda la riproduzione assistita, no? La riproduzione artificiale, certo, cosiddetta, certo, e quella sì funziona. Ora, naturalmente, insomma, a me sembra un po' una scorciatoia per dire, guardate quanto siamo bravi, abbiamo una tecnica, addirittura una tecnica in più, e vi proponiamo addirittura la clonazione. Nel caso specifico di questa notizia, si tratterebbe addirittura, appunto, di clonare, di prendere delle cellule della pelle di una bambina che era defunta, no? E quindi con tutto il valore che poi questa cosa può avere. Questo, diciamo, ha a che fare con un immaginario, che è un immaginario pieno di fantasie, ma che poco hanno a che fare con la realtà. Questo che attrae e genera repulsione, questa idea della clonazione, anche perché noi magari non ci pensiamo, ma degli individui clonati esistono in natura, li vediamo continuamente, sono i gemelli, semplicemente, no? Quelli che certo, i gemelli omozigoti, e certo, questi da sempre hanno pensato, non so, alla commedia degli errori di Shakespeare, ma anche più nell'antichità, certo, cioè c'è sempre stata questa idea. Ora se noi conosciamo tutti dei gemelli, e non è che ci fanno impressione, sono due individui distinti, non sono lo stesso individuo, certo, però il fatto che siano identici, geneticamente identici, insomma, ci fa pensare che ci sia un furto di identità, no? Il fatto di creare delle appunto, attraverso la clonazione. Però appunto, gli esseri clonati esistono già, non sono poi così inquietanti. Un certo delirio di illusioni, no? In questo, sì, esatto, solco parte, qui c'è a margine di questa storia di questo dottor Zavos, c'è la storia poi di una bambina morta in un, esatto, incidente, il cui sangue, esatto, Zavos avrebbe avuto in campioni congelati, dando poi luogo, ma non si capisce esattamente la finalità di tutto ciò. Ma per chiudere, Armando, ma c'entra, guarda, però la finalità, io ti dico, sono, scommetterei che, siccome sia sicuramente una bufala come tutte le altre, insomma, certo, è farsi pubblicità, insomma, anche perché queste cose non sono mai pubblicate in riviste scientifiche accreditate, no? Sono delle cose che arrivano direttamente ai media, qui addirittura c'è un filmato fantomatico che sarebbe, come no, stato trasmesso, girato, credo, stasera in televisione, sì, peraltro, sì, no, certo, su un canale anche disponibile in Italia, quindi veramente ci può essere un fine promozionale. Sì, ma non è il modo evidente in cui opera normalmente la scienza seria, che insomma, che avrà tutti gli anticorpi, peraltro, per denunciare le ricerche che non vanno a buon fine, e queste, insomma, lo sono. Ma ecco, posso dire solo una parola sul fatto, certo, che non, certo, sono, la motivazione non è tanto la ripulsa o il fatto che morale di fondo, ma il fatto che allo stato attuale noi produrremmo come esseri umani clonati degli animali profondamente disturbati, cioè, o meglio, degli esseri umani, così come erano profondamente disturbati quelli che gli animali che sono stati clonati a partire da Dolly, che ha avuto acciacchi di tutti i generi proprio per il fatto che era un animale clonato. Quindi per questo è immorale clonare gli esseri umani oggi, perché sarebbe tecnicamente assolutamente non fattibile, e anche se si riuscisse ad arrivare ad un individuo, sarebbe qualcosa di aberrante. Per questi motivi produrremmo una persona sicuramente infelice, ma non per i motivi che si dicono di solito, ma proprio perché sarebbe fortemente danneggiata proprio dal punto di vista biologico. Questo è ciò che di solito affermano gli scienziati, senza nulla togliere poi a tutte le altre ripulse, ma quelle vanno analizzate con calma, ecco, fanno parte del nostro immaginario e vanno analizzate in un altro altro, come dire, su un altro piano, diciamo. Quindi l'immortalità, insomma, non è per oggi. Ci stiamo lavorando, ma dobbiamo aspettare. Assolutamente, non lo sarà mai. Avremo probabilmente è vero che i 120 anni sono una prospettiva abbastanza plausibile. Poi bisogna anche vedere come ci si arriva. Ecco, cioè, vera sfida sarà vedere se e quanti ci arriveranno. Ed è però l'immortalità sicuramente non è uno degli obiettivi della scienza. Va bene, grazie della partecipazione a Armando Massalenti. Chiudo con, mi sembra uno stupendo SMS che ci è appena arrivato da Teo da Milano, che dice, a margine insomma dell'annuncio del dottor Zavos, dice: beh, finalmente, sono anni che ho bisogno di un clone per prendermi una vacanza. At the house right now, we do have the family who surrounded themselves with additional family and friends. There are detectives still on scene, beginning the investigation of this unattended. Ieri entravamo in trasmissione, era appena arrivata la notizia del suicidio del responsabile finanziario di Freddie Mac, il colosso dei mutui americani. Si chiamava David Kellerman, 41 anni, nella casa nei sobborghi virginiani della capitale di Washington, e non erano ancora emersi particolari. Poi più tardi, poco alla volta, sono venuti fuori. Si è saputo che si è impiccato, che non ha lasciato un messaggio, che era in un momento di grande difficoltà psicologica, forse legata semplicemente al difficile mestiere che stava facendo, forse legata anche alla partecipazione, no, a questo senso di colpa e, se vogliamo, anche di espiazione collettivo, ammesso ci sia questo senso di espiazione, relativa ai famosi bonus, relativa quindi a un'atmosfera un po' imperante su Washington in queste settimane. Non a caso poi è arrivato su The Politico, che è una voce molto attendibile della politica americana, oggi un articolo dove fra le righe appare il nome, no, che un po' aleggiava subito. Questo nome è Vince Foster, e se vi interessate di politica americana sapete che corrisponde a una delle pagine più oscure, più opache anzi, se possiamo dire, della politica americana, dove politica comincia a scintillare, no? Un po' a brillare di crimine. Le due cose finiscono per sovrapporsi, naturalmente le questioni etiche, quelle questioni etiche tanto invocate da Barack Obama, diventano improvvisamente a loro volta assai opache, e tutto si riveste di un mistero. Sarà il caso di questa morte? Sarà il caso di un procedimento collettivo che non può essere certo certo ancora paragonato al disastro psicologico, ad esempio prodotto da Mani Pulite in Italia, ma di sicuro dal punto di vista psicologico qualcosa si sta muovendo anche dalle parti della capitale americana. Ne parliamo tra l'altro più tardi con tutti i vostri pareri nello spazio che abbiamo chiamato Express Yourself, ma ora invece ne parliamo subito con Mario Platero, il nostro amico, voce abituale qui a Jefferson, nonché corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore. Ciao Mario. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, come ci inquadri questa storia? È semplicemente una storia molto triste o è peggio, la punta di un iceberg psicologico, psichico addirittura, che potrebbe avere risvolti più preoccupanti? Ma guarda, in una storia, in un articolo che ho fatto questa mattina, certo, sul Sole 24 Ore, ho citato un po' dei pettegolezzi che naturalmente hanno infiammato internet, perché dietro una vicenda così tragica e drammatica sul piano personale si scatenano poi l'azione di ogni genere. Dunque sentivo che tu raccontavi come politico così ricordava l'episodio di Vincent Foster, questo suicidio alla Casa Bianca, certo. Così denso di momenti oscuri, no? Ecco, io ti dirò, appunto, su internet qualcuno diceva: questo signore si è suicidato perché sapeva tutto, sapeva che Freddie Mac e Fannie Mae non sarebbero state salvate e che saremmo tutti precipitati, così quasi con toni apocalittici, di nuovo in una non recessione, non depressione, ma addirittura un cataclisma economico. Ma sono molte le voci così sussurrate attorno al mercato immobiliare americano che ancora non avrebbe visto, come dire, il vero baratro. Anche casualmente mi arrivano anche per altri versanti, ma evidentemente può darsi che ci sia qualcosa di ancora non detto? Dunque potrebbe essere, proprio oggi abbiamo appreso una notizia straordinaria su cui si lavorerà appunto oggi, perché è una cosa di questa mattina, in cui Lewis, il capo di Bank of America, a suo tempo, e cioè settembre, ottobre, novembre, quando negoziava col Tesoro per acquistare Merrill Lynch, si accorse che la situazione di Merrill Lynch era disastrosa e gli fu chiesto di non dirlo al mercato, certo. Gli fu chiesto addirittura dal segretario al tesoro Paulson e dal capo della Fed Bernanke. Questo sta scatenando oggi una ridda di ipotesi di ogni genere, perché se è vero per quella situazione può essere vero per altre situazioni. Ecco, detto tutto questo, il mercato è tranquillo e questo per me è un segnale molto importante. Importante, certo. E dunque è facile fare congetture di ogni genere, è facile partire dal caso del povero Kellerman oppure da questa notizia non divulgata dell'amministratore delegato di Bank of America, di Lewis, per dire chissà che cos'altro non sappiamo e forse davvero siamo su loro del precipizio. La realtà è che c'è una storia dietro Lewis, c'è una storia dietro Kellerman, sono delle storie ben definite. Si doveva salvare Merrill Lynch evitando un rimbalzo psicologico sistemico. Sappiamo che è fondamentale in certe situazioni mantenere i nervi saldi, e i nervi, scusate, come abbiamo visto al mercato sono saltati più volte, e dunque in quel caso si è deciso di andare avanti sull'operazione per poi rivelare alcuni dei problemi dopo, quando sarebbe stato più facile assorbirli. E infatti così sta capitando: Bank of America alla fine ha annunciato profitti relativamente soddisfacenti, anche se ha alcune cose da ripulire per il primo trimestre di quest'anno. La storia di Kellerman è una storia così umanamente triste, certo. Questo signore a un certo punto, dopo 16 anni di carriera in questa istituzione, a Freddie Mac, una delle due grandi finanziarie che comprava, acquistava i mutui dalle banche, quindi faceva un po' da valvola di scarico per il mercato, e aveva centinaia di miliardi in portafoglio, si trova in difficoltà, viene nazionalizzata, saltano i vertici che lui conosceva bene, gli viene chiesto di fare il direttore finanziario, qui stiamo parlando ormai dell'ottobre scorso, lui accetta e improvvisamente si trova in mezzo a una situazione che era addirittura frenetica, sembra che lavorasse 20 ore al giorno, andava a casa per cambiarsi, per poi tornare al lavoro, perché era una situazione straordinariamente complessa, lui e la sua squadra. Su di lui ovviamente pesavano molte responsabilità, lui immaginava che questa posizione gli avrebbe poi consentito di fare altri balzi importanti di carriera, quindi sentiva molto la pressione anche così di sul lavoro e psicologica. E a un certo punto, in questa situazione in cui lavoravano come delle bestie, interviene un'inchiesta della procuratore di New York, certo, della procura di New York. Questa inchiesta vuole verificare quanto guadagnano questi signori. Gli era stato promesso a David Kellerman un bonus di $800,000 per tutto il lavoro che faceva, per la situazione in cui si era trovato, per questa straordinaria posizione, avrebbe potuto guadagnare, certo, molto di più nel settore privato. E gli viene contestato, certo. Gli viene contestato, certo, a lui e ad altri, ma gli viene contestato in modo brutto. Nel senso che pochi giorni dopo arrivano dei drappelli di protesta davanti a casa sua, arriva la televisione, e quindi questo signore, che così in qualche modo dà tutto quello che può dare, si trova al centro di una polemica che sappiamo, col populismo crescente, montata molto sugli stipendi, super stipendi dei manager, i ricchi e così via, così via. Senza renderci conto a volte che poi questa categoria di persone a sua volta è sotto enorme pressioni, ha magari delle esposizioni personali molto forti, aveva fatto dei conti così acquistando una casa sulla base di reddito che sarebbe aspettato, quindi si trovano sull'orlo del fallimento, si trovano in gravi difficoltà. Lui si è trovato al centro di questa situazione, addirittura aveva chiesto una scorta per proteggere la sua famiglia, perché si sentiva vulnerabile, si sentiva fragile, ecco. E in questo contesto, secondo me, che a un certo punto ha ceduto e si è suicidato, e ha dato un messaggio, direi, molto forte anche sul piano politico, su quella che è la situazione in cui si trovano molti di questi manager, di queste persone. Ecco, detto questo, non c'era una lettera. Certo, non c'è qualcuno messaggio. Appunto solleva l'ipotesi che possa essere stato fatto qualcosa di strano, ma la polizia di Fairfax County ha fatto un'inchiesta molto dettagliata, hanno lasciato il poveretto per quattro ore addirittura nella posizione in cui l'hanno trovato, certo, si è impiccato appunto togliendo uno sgabello da sotto, mettendo una corda sulle travi dello scantinato dove era sceso intorno alle 2 alle 3 del mattino. La moglie ha trovato il suo cadavere intorno alle 4:30, 4:15, quando si è accorta che non era più con lui in camera da letto, e ha chiamato la polizia alle 4:48, quindi è stato un evento che non, ecco, se arriva qualcuno in casa per fare questa, insomma, non è una cosa necessariamente semplice da farsi, ecco. Quindi io credo che alla fine, per quel che sappiamo, e credo sia sempre meglio poi basarsi sull'evidenza, sulla realtà che conosciamo, credo che sia così, una storia molto tragica, molto triste, tristissima sul piano personale. Mario, ti ringrazio di questo approfondimento, ma prima di lasciarti, in un minuto che è quello che abbiamo, vorrei che ci mettesse a parte gli ascoltatori, soprattutto in relazione a questo articolo molto interessante che ieri nella Giornata della Terra hai pubblicato sul Sole, relativo a un mondo lontano e a un mondo vicino al tempo stesso, da un punto di vista dei modelli possibili per alternative economiche, addirittura la Guyana. Puoi semplicemente riassumere in poche parole che si tratta? Poi il pezzo è veramente grande interesse, dici? Sì, guarda, è una storia straordinaria. La Guyana ha una delle foreste tropicali più importanti del mondo, e la foresta tropicale è essenziale per l'equilibrio ecologico del nostro pianeta. Sta scomparendo piano piano perché viene bruciata a ritmi forsennati per creare pascoli, per creare coltivazioni, per creare risorse economiche più produttive per l'economia di alcuni dei paesi che le ospitano, e dunque si è calcolato che il 20% delle emissioni deriva proprio dalla deforestazione. C'è un progetto per far sì che questa deforestazione si interrompa, deve essere un progetto ovviamente economico. La Guyana, col suo presidente Jingdeo, è al centro di questo progetto, un progetto che è stato poi messo sotto l'ala del principe Carlo, che si è innamorato di questa idea, il principe Carlo d'Inghilterra, una sua fondazione. Quindi c'è un straordinario attivismo attorno a questa vicenda di cui ancora non ci si occupa formalmente, non c'è nulla di formale, è una sfida molto importante per il nostro governo. Berlusconi ha partecipato a un incontro a Londra proprio con il principe Carlo per occuparsi di queste cose. Si chiede che il G8 lo faccia suo e dunque che l'Italia faccia un po' da volano per questa causa, perché l'obiettivo finale è il vertice di Copenaghen a dicembre, il vertice climatico che dovrebbe così dare un po' le coordinate per il post-Kyoto, un vertice importante perché avrà gli Stati Uniti, la Cina, sarà il vero svincolo multilaterale per il clima. Le foreste sono al centro, speriamo che abbiano più attenzione di quella che hanno avuto finora. Grazie a Mario Platero. Federico Rampini oggi scrive su Repubblica in relazione alla morte di Kellerman, il direttore finanziario di Freddie Mac. Cerca anche lui delle motivazioni ulteriori. Dice: il suo gesto suscita emozioni contrastanti, si prova compassione e pietà per un uomo che è ceduto di schianto sotto l'enorme pressione psicologica della crisi. D'altra parte, la solitaria disperazione di Kellerman fa risaltare l'atteggiamento della stragrande maggioranza dei colleghi, impermeabili alle critiche, avidi, arroganti, incapaci di assumersi responsabilità. Noi l'abbiamo intitolata La solitudine dei manager e vi abbiamo chiesto cosa ne pensate. Molti punti di vista, molti gli interventi. Devo confessare una sorta di punta di disagio per alcuni messaggi, se vogliamo, da sapere un po' giacobino, insomma, no? Anche capisco, dopo il reportage di Platero, capisco, vero? La frustrazione, insomma, la crisi e tutto, però leggere nessuna pietà per chi si è suicidato, ecco. L'ultimo gesto del codardo, insomma, sono un po' pesanti questi messaggi. Comunque ce ne sono, magari certo, qualcuno lo leggeremo di questi. Beh. Il fattore umano, no? Sparisce un po'. Sparisce. Per esempio ci scrive Olof addirittura dall'Islanda, che era un'oasi felice in testa a tutte le classifiche di gradimento, di bella vita, invece è finita anche lei nella bancarotta. Infatti Olof scrive: io sono islandese e questi hanno rovinato il mio paese, non posso provare compassione per loro. Tra quelli più violenti c'è Corrado, che dice: l'estremo gesto del codardo, appunto, me lo immagino durante le sue tante feste del ringraziamento o a Natale, mentre circondato dai suoi colleghi brindava tutti i poveracci che aveva imbrogliato. E invece Lucio fa una riflessione più intensa: sciacallaggio e caccia alle streghe stanno diventando una costante in Occidente, la dittatura dell'invidia e dell'ipocrisia. Visione satanica, satanica del manager. Però posso concordare con questa visione anche della caccia alle streghe che si sta scatenando adesso. Cristiano dice: non credo che il potere della comunicazione sia pericoloso se porge solo le notizie e i fatti alla gente. Il problema comincia quando al posto dei fatti cominciano a essere divulgate opinioni. Anche qui un'altra critica trasversale. Flavio: quando si compiono eccessi del tipo in questione ci si devono aspettare reazioni proporzionate, che non è facile prevedere fin dove possano portare. Raffaella: se un padre di famiglia perde il lavoro eccedendo la pressione dei sensi di colpa per non poter mantenere la famiglia, si suicida, di fronte a tale notizia non ci sono emozioni contrastanti, si prova compassione e rabbia. Tra i tanti contro il manager c'è anche Dragos, invece, che è dalla sua parte e scrive: i giornali americani dicono che lavorava per l'azienda da 16 anni, quindi ha fatto carriera per diventare manager. Non sembra uno dei signori che passa da un'azienda all'altra solo per fare licenziare la gente. Quello che ci ha confermato Platero. Esatto, e poi c'è un rapidissimo sillogismo, anzi una equazione di Alessandro, che dice: grandi stipendi uguali, grandi responsabilità e grande pressione. Luigi: quando ho sentito la notizia si sono accavallati tre sentimenti: invidia per una persona da un bonus da $800,000, rivalsa su queste persone che fanno dell'avidità la loro ragione di vita, serenità perché io non sono un manager. Roberto: mi dispiace per l'uomo, anche perché era arrivato a quel ruolo ultimamente. Parlando con un manager finanziario mi raccontava che l'etica è una sconosciuta nell'ambiente, l'importante è guadagnare. Infine Umberto: il sogno di tenere insieme Wall Street e Main Street è fallito. La crisi è una crisi di gestione, non della proprietà. È la coda lunga e modificata della rivoluzione reaganiana di 30 anni fa. E molti altri, magari li manteniamo e ci torniamo, perché il tema secondo me è a passione, nel bene e nel male. È importante. Questo è Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, a mio fianco Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Giacomo Spunta a Milano. La mail è jefferson2@radio24.it. Le nostre pagine Facebook si chiamano Redazione Jefferson 2, la nostra, per colloquiare con noi e per partecipare ai nostri forum. Invece Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, iscrivetevi numerosi. La trasmissione va in replica a mezzanotte, la trovate in podcast sul sito della radio e in diretta dopo le 4 domani qui su Radio 24. 游戏。